nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 22 maggio, il sole in regione è sorto alle 5.28 e tramonterà alle 20.41. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Negli approfondimenti dei vari comparti del settore primario non poteva mancare quello floricolo, che in regione continua a conquistare nuovi spazi e specializzazioni, rispondendo ad una crescente domanda del mercato. Per la rubrica del bio parliamo ancora di fertilizzanti organici, della loro importanza e della comparsa dell'etame urbano, che ha bisogno però ancora di qualche aggiustamento di qualità. A seguire il ruolo e nuove applicazioni dell'utilizzo dei batteri lattici nella fermentazione del vino e poi una scheda sulla coltivazione dei fagioli in orto, coltura importante per la salute del terreno e anche per la nostra dieta. Nello spazio che dedichiamo alla gastronomia oggi è la volta del budino, che, sentirete, nasce tutt'altro che come dolce. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Vita nei Campi oggi analizza anche il settore della floricoltura in Friuli Venezia Giulia. Alessandro Squizzato da anni collabora nella veste di esperto coltivatore a un'azienda di Mortegliano, una delle realtà più importanti della regione. Gli chiediamo pertanto se può farci un panorama del settore floricolo in regione. In regione operano complessivamente circa una settantina di aziende per una superficie pari a una settantina d'ettari, dei quali 35 sono protetti, ovvero serre riscaldate, tunnel, freddi e ombrai. Il valore della produzione stimato è di 50-60 milioni di euro. La floricoltura della nostra regione è composta da realtà produttive medio-piccole. Pensiamo che il 20% produce circa l'80% dell'intero comparto, il 40% produce e vende direttamente al pubblico, mentre il restante 40% commercializza. Un altro aspetto importante è rappresentato dal fatto che l'80% delle produzioni sono effettuate in vaso, mentre il rimanente 20% è costituito da fiori recisi. Quali sono le innovazioni più significative che stanno arrivando in questo comparto adesso? Iniziamo dicendo che la rapida evoluzione delle imprese nazionali e dei partner europei negli ultimi 10 anni ha fatto emergere per le nostre realtà la necessità di una innovazione strutturale accompagnata a un processo produttivo di altissima qualità con tecniche di coltivazione alternative e a basso impatto ambientale, ovvero negli ultimi 10 anni la gestione dei principali problemi fitosanitari avviene facendo sempre più uso di prodotti naturali o attraverso una attenta gestione climatica delle serre. La nostra scommessa è quella di eliminare quasi totalmente i prodotti fitosanitari usando sostanze di derivazione naturale e con l'utilizzo di insetti utili, cavalli di battaglia che nel mio campo portiamo avanti da anni. In questo ci avvaliamo della collaborazione trentennale dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia, ERSA, che ci permette di mettere a punto nuovi metodi di coltivazione, concimazione e di difesa. C'è da pensare che nell'evoluzione della produzione, di questa produzione, abbia fatto riscontro anche un'evoluzione dei gusti del consumatore. Nell'ultimo decennio il mercato si è orientato su piante di taglia media, con un aumento significativo della richiesta di piante fiorite per l'abbellimento di terrazze ed aiuole. Le specie che hanno fatto registrare la maggiore vendita, diciamo, sono le dipladenie e le nuove tipologie di petunie. Su quali mercati si colloca questa produzione? Il 70% della produzione è collocata sui mercati regionali, il 10% fuori regione e il rimanente 20% raggiunge i mercati di Austria e Slovenia. Sottolineiamo che nell'ultimo decennio il mercato estero è cresciuto di circa il 10%. Ha inciso in qualche maniera la pandemia e le sue restrizioni su questo settore? All'inizio della pandemia, come per altri settori, ci sono stati momenti di grandissima incertezza. Noi siamo rimasti chiusi totalmente per circa un mese. Molte persone, non potendo uscire di casa, hanno maturato la consapevolezza e la voglia di colorare le case e i giardini regalandosi fiori per l'abbellimento. In molti hanno iniziato anche l'esperienza della coltivazione dell'orto. Tutto ciò ha favorito il comparto floricolo con un forte incremento delle vendite. E noi speriamo che questo trend si confermi anche nel medio e lungo periodo. La scarsità e costo dei fertilizzanti di sintesi stanno rivalutando anche quelli organici, troppo spesso snobbati anche in agricoltura. È così comparso anche il letame urbano prodotto grazie al riciclo e differenziamento dei rifiuti, ma i problemi legati alla sua qualità non mancano. Al di là delle parole di moda come circolarità, sostenibilità, bioeconomia, un fatto tangibile è l'attuale prezzo dei fertilizzanti di sintesi e la loro sempre più precaria disponibilità, anche a causa di accaparramenti strategici da parte di alcuni paesi. Anche i prezzi dei fertilizzanti organici non scherzano quanto a rialzi. Dall'altro canto, un fatto concreto e tangibile è quello relativo al nostro inquinante spreco di nutrienti derivante dai rifiuti urbani. Tanto per descrivere quello che succede in regione, i dati ARPA riportano la produzione annua di poco più di 65.000 tonnellate di rifiuti organici raccolti, cui se ne sommano circa 80.000 derivanti dalla raccolta del verde, che dopo compostaggio o fermentazione diventano 50.000 tonnellate di ammendante misto e 16.000 di ammendante verde. Se un tempo il punto in cui gli alimenti e gli scarti antropici ritornavano alla terra era la concimaia, ora è la discarica. Tant'è che qualcuno ha proposto la convincente definizione di letame urbano. Purtroppo però gli umani, a differenza dei bovini, non sono poligastrici e non riposano su lettiera vegetale, ma piuttosto su tanta plastica. La conseguenza è che il letame urbano spesso contiene residui che lo rendono incompatibile con il buon uso agricolo. Plastica, sia quella che si vede che, peggio, quella che non si vede, pezzi di vetro, metalli pesanti dalle pile, altre amenità. Però tutto questo si può migliorare con una migliore separazione dei rifiuti. Possibile che non siamo disposti a fare un piccolo sforzo in questo senso? Un altro dato ARPA, nel rifiuto seco residuo c'è ancora un buon 20% di organico che potrebbe tornare ai campi se fosse separato alla fonte. Anche qui, possibile che non si possa fare un qualcosa per agire da umani responsabili? Responsabili del proprio letame? Tanto per passare dal locale al globale, nell'Europa 27 si producono annualmente circa 30 milioni di tonnellate di compost da rifiuti organici e quasi altri 2 milioni sono le tonnellate di compost prodotte a livello domestico, tradotti in azoto, fosforo, potassio. Ogni tonnellata di compost contiene, in media, fino a 15 kg di azoto, 12 di fosforo e un po' meno di potassio. A voi fare le moltiplicazioni, ma è tanta roba, che potrebbe essere tanta roba buona perché è accompagnata da più di 400 kg di sostanza organica, quella che fa l'humus, utilissimo anche per tutte le altre funzioni del suolo. Un'altra opzione interessante e in grado di ottimizzare tutto, ricircolo sostanza organica, limitazione trasporti, tempistica perfetta, è il compostaggio aziendale, ovvero quello fatto in azienda agricola, sia con i propri scarti organici, ma anche con altre fonti limitrofe. E perché così poco frequente? Beh, la normativa diciamo che non aiuta affatto il bravo contadino che si voglia cimentare con il cumulo. Egli infatti corre gli stessi rischi di chi scarica la botte in un fosso o brucia la plastica in cortile. Esagero? Forse, però, una revisione in chiave saggezza dei reali rischi di inquinamento di questa pratica sarebbe sacrosanta. Con il professor Roberto Zironi continua il nostro viaggio nella fermentazione del mosto e del vino. Oggi è la volta del ruolo e importanza dei batteri lattici, strategici per l'affinamento dei sapori. Spesso si associa alla produzione del vino, in conseguenza delle sue attività fermentative a carico degli zuccheri, soltanto all'azione del lievito Saccharomyces cerevisiae. Oltre a questo, però, altrettanto importanti sono quei batteri che hanno il compito di compiere altre fermentazioni per il miglioramento della qualità del vino. I responsabili in questo caso sono i batteri lattici, che si selezionano rispetto alla popolazione batterica complessiva nel mosto e nel vino per effetto del basso pH, dell'elevato grado alcolico e della scarsità dei nutrienti. I batteri lattici del genere Oenococcus, e in special modo Oenococcus eni, si adattano facilmente alle rigide condizioni del vino e quando il pH del substrato è superiore a 3,5 sono affiancati dai batteri del genere Lactobacillus. Questi batteri lattici, in autunno dopo la fermentazione alcolica, se le temperature lo permettono, o in primavera a causa del rialzo termico che solitamente si viene a creare, innescono la fermentazione malolattica del vino, nella quale l'acido malico, presente nell'uva, viene trasformato in acido lattico e anidride carbonica. L'acido malico dona al vino una nota molto acida, ricercata nei vini bianchi freschi e profumati. L'acido lattico è invece tra le sostanze morbide del vino, che dona al vino rotondità e calore, che compensano molto bene le note dure e astringenti del tannino nei vini rossi. Infine, questo processo permette di rendere sostanzialmente più uniforme la qualità di un vino da un anno all'altro, poiché i batteri fanno diminuire l'acidità negli anni in cui questo per difetto di maturazione è in eccesso. Per tradizione questa fermentazione è più gradita per i vini rossi, ma attualmente è stata introdotta anche nei vini bianchi importanti per incrementarne la morbidezza. Un vino bianco con una intensità e una complessità aromatica ridotta, dopo la fermentazione malolattica è molto probabile che migliori il proprio bouquet aromatico. Ad esempio, dopo questa fermentazione si avrà una intensificazione degli aromi lattato-burrati, in quanto tra i prodotti secondari formati si trova il diacetile, che arricchisce l'aroma del vino di un odore di burro piuttosto gradevole. Come per la fermentazione alcolica, per svolgere la fermentazione malolattica ci si può fidare a batteri naturalmente presenti nel mosto o nell'ambiente di vinificazione, oppure si può ricorrere ad inoculo di ceppi batterici selezionati appartenenti ai generi Enococcus o Lactobacillus. Se tradizionalmente la fermentazione naturale è quella preferita, negli ultimi anni si è incrementato l'utilizzo delle colture starter, che minimizzano la produzione e l'accumulo del vino di un metabolito secondario non gradito e amine biogene. In definitiva si può affermare che le fermentazioni lattiche negli ultimi anni hanno assunto nell'industria enologica un'importanza crescente sia nella produzione dei vini rossi che in quella dei bianchi anche spumanti. Oltre a far bene al terreno in quanto azoto fissatori, i fagioli fanno bene anche alla nostra alimentazione. Nell'orto sono pianta relativamente facile da coltivare, come ci spiega oggi Sara Bosco, che ci dà anche una panoramica delle due grandi famiglie in cui si divide questa coltura. Oggi vorrei parlare del fagiolo, una coltura molto conosciuta nel nostro territorio e che spesso viene coltivata negli orti di casa. Appartiene alla famiglia delle leguminose e può presentarsi sia sotto forma di pianta nana che rampicante. Generalmente la forma nana è più adatta a climi di pianura, mentre l'altra si adatta meglio alle coltivazioni in collina e montagna. Queste piante sono importanti nel nostro orto perché lo mantengono fertile. Questa funzione è garantita dai batteri che si sviluppano in simbiosi con le radici e che permettono di fissare l'azoto nel terreno. Si adatta bene a climi caldi e temperati e non risulta eccessivamente esigente per la tipologia di terreno. Le lavorazioni del terreno devono assicurare un letto di semina soffice e ben sminuzzato, in quanto il seme potrebbe avere delle difficoltà nella fase di emergenza. Il periodo di semina inizia intorno ad aprile e maggio in relazione alle temperature. Le file vanno poste a distanti 50 o 100 cm e la distanza sulla fila è di 3-4 cm tra la pianta, in funzione della varietà e del tipo quindi di fagiolo che andremo a mettere. Durante la crescita è importante mantenere il terreno aerato, evitando che si crei la crosta superficiale e che non emergano le piante infestanti. Le irrigazioni sono particolarmente indicate nel periodo dalla fioritura fino all'ingrossamento dei vaccello, ma dipende molto dalle temperature. Esistono in commercio diverse varietà che si distinguono per lunghezza del ciclo colturale, portamento, colore e forma dei semi. Sono alcune malattie che possono colpire questa pianta, questa coltura, in particolare funghi che agiscono in presenza di elevata umidità, e sono presenti anche alcuni insetti che causano diversi danni, tra cui afidi e un coleottero in particolare. Quest'ultimo si insedia nel seme e si riproduce anche una volta che vengono raccolti, perciò è importante conservarli in freezer, così lo si va a bloccare se presente e non ci va a danneggiare il fagiolo una volta raccolto. Il fagiolo è una coltivazione rustica adatta al nostro clima e che può essere coltivata anche in vaso purché siano di grandi dimensioni. Se sapeste quali sono le origini del budino, tutt'altro che un dolce, oggi Roberto Zotar ci parla della sua storia, per concluderla con una ricetta consona con l'idea che abbiamo del budino moderno. A guardare le scatole di preparati in polvere fra i banchi del supermercato, a nessuno verrebbe in mente che i budini in realtà hanno origini antichissime e che nel passato erano delle preparazioni salate. L'etimologia remota del termine budino, infatti, si ricollega al latino botellus, budello, che in origine si usava per preparare salsicce o budini salati. I romani preparavano il sanguiculus, sanguinaccio, anche noto come botellus sanguineus, ossia una salsiccia ottenuta con il sangue di maiale, e in Friuli oggi nota come mule o sanganel. Nel Medioevo continua la preparazione dell'insaccato e abbiamo documenti tardo-medievali, tra cui il Ménager di fine del XIV secolo, che descrivono ricette per un boudin blanc, cioè salsiccia, e un boudin noir, il sanguinaccio, che nella cucina inglese diventa poi black pudding. La carne veniva macinata fino ad una consistenza finissima, quasi spalmabile. Queste preparazioni si sono poi evolute solo nel corso del XVIII secolo nelle tipologie di budini dolci conosciute oggi, mantenendo dei prodotti di salumeria soltanto la consistenza morbida. Della famiglia del budino fanno parte oggi creme in tazza, creme caramel, bavaresi. Il budino era molto diffuso in Veneto, usato non solo come dolce, ma anche come secondo piatto. Venivano mescolati latte, miele, riso o semolino o farina, uva passa e zucchero, che lo rendevano molto ricco. Nello stesso periodo, anche in Gran Bretagna, il budino cotto, boiled pudding, era il cibo giornaliero della marina inglese, la Royal Navy. Il termine attuale budino è un adattamento dall'inglese pudding. È documentata nel Settecento la forma puddingo, sul quale in seguito influì probabilmente anche il francese boudin. La ricetta di oggi quindi non può che essere quella di un budino, l'ottimo budino al cioccolato di Graziana, un'amica di Webb che per la passione per la cucina anni fa ha lasciato il posto fisso in un'azienda pubblica per aprire una rosticceria a Trieste. La ricetta non prevede uova. Setacciate insieme 100 g di farina, 200 g di zucchero e 100 g di cacao amaro di alta qualità e versate il tutto in un tegame dove avrete fatto sciogliere 100 g di burro. Mescolate bene, aggiungete un litro di latte e cuocete per 10 minuti dal bollore abbassando la fiamma. Caramellate uno stampo da budino, bagnate con un cucchiaio di rum e versatevi la crema calda. Lasciate raffreddare e rassodate in frigo. Invece del cacao potete usare cioccolato fondente e, volendo esagerare, parte del latte può essere sostituito da panna liquida. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato debole con prezzi diversificati venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 36 e 30 euro al quintale IVA esclusa. Non quotato il frumento e la soia tra 66 e 70, 67 e 20. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 10 euro e la soia di 8 il quintale. Stabile l'andamento dei bovini nel macello. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 3,20 e 3,70 euro al chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,60 e 3,20. Passando ai vitelli da ristallo, il valore del blu belga maschi oscilla tra 6,10 e 6,60 euro al chilo IVA compresa, quello dei pezzati rossi fra 4,40 e 4,80, quello dei frisoni fra 1,70 e 2 euro e quello dei bruni fra 1,50 e 1,70. Resta al palo l'andamento del comparto suinicolo, con il lattongiolo di 30 kg quotati, franco partenza, a 3,33 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 1,52 il chilo. Segno positivo nel settore caseario, con il montaggio di 90 giorni pagato tra 7,730 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 8,30, lo stagionato di 12-15 mesi tra 8,40 e 8,80. Migliora anche il prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotato franco stalla dalla Commissione Camerale di Pordenone Udine tra 46 e 48 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Mercato diversificato nel settore dei foraggi, dove il fieno Mazzengo di pianura viene quotato tra 11 e 11,50 euro al quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità fra 16 e 16,50 e la paglia di cereali pressata fra 9,50 e 10 euro al quintale. Infine, scambi fiacchi con prezzi stabili nel settore avicunicolo. Il valore dei polli a terra varia tra 1,69 e 1,71 euro al chilo IVA esclusa. le anatre da 3,51 a 3,55, i tacchini maschi tra 2,28 e 2,30, le faraone tra 3,85 e 3,95, i conigli oltre 2,5 kg da 2,09 a 2,15, e il prezzo delle uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra è di 19 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA, Marcellino Salvador, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. La prima decade di maggio è stata caratterizzata da tempo variabile e incerto, con temperature nella norma. Si sono avute anche delle piogge e qualche temporale, che però non hanno determinato accumulati particolarmente significativi di precipitazione. Con l'inizio della seconda decade le temperature sono aumentate rapidamente, con valori medi giornalieri in pianura sui 20 gradi e massime ben oltre 25. E verso il giorno 15 si è arrivati localmente anche ai 30 gradi. Il mare ha subito un forte riscaldamento e nel giro di pochi giorni si è portato a 20 gradi, temperatura che si dovrebbe raggiungere in giugno. Spulciando gli archivi, constatiamo che questa seconda decade di maggio, appena conclusa, è stata la più calda almeno degli ultimi 40 anni, con 21 gradi di temperatura media in pianura e quasi 28 di massima, tra i 3 e i 4 gradi oltre la media climatica. Sebbene abbiano prevalso le giornate assolate, non sono mancate le fasi temporalesche, specie sui monti e dal pomeriggio, che si sono estese la sera del 16 anche a pianura e costa per il passaggio di un fronte occidentale. Questa perturbazione, di fatto l'unica degli ultimi 10 giorni, ha determinato la formazione di temporali persistenti sulle prealpi carniche e pedemontana pordenonese. Da ieri il caldo è tornato a farsi sentire, specie in pianura. Non abbiamo picchi massimi da record, ma ricordiamo che andare oltre i 30 gradi a maggio, come succederà questo pomeriggio, non dovrebbe rientrare nella normalità. Possiamo quindi dire che quest'anno la primavera è durata solo 2 mesi. Infatti abbiamo avuto temperature invernali fino a metà marzo e a metà maggio ci ritroviamo di fatto in un regime estivo. Passando alle previsioni, si osserva che l'anticiclone caldo che interessa in particolare il Mediterraneo occidentale influenzerà il tempo sulla nostra regione fino a domani o dopodomani, seppur disturbato da correnti occidentali più fresche sull'area alpina, che sia oggi pomeriggio che domani potranno determinare locali rovesci e qualche temporale, in particolare in montagna. Intorno a mercoledì, una depressione in arrivo dall'Atlantico sostituirà l'anticiclone caldo presente sull'Europa centro-occidentale, determinerà temporali sull'Italia nord-occidentale e potrà accentuare l'instabilità anche sulla nostra regione, con temporali più frequenti sui monti, ma che potrebbero interessare anche qualche zona pianeggiante. Il tutto con una leggera diminuzione delle temperature massime. In seguito il tempo sarà probabilmente più stabile. Le probabilità di pioggia distribuite e significative in pianura non sono pertanto molto alte. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. San Gregori Papela, Sisile e passe laghe, o passa o no passa, e è ore di Arà. Ovvero per San Gregorio Papa, il 25 maggio, la rondine ha passato l'acqua, il mare, passato o non passato, è ora di arare. Coordinamento tecnico di Daniel Apposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Miccoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.